Volevo brevemente dire il senso, spero brevemente, insomma, il senso di un'operazione come questo. Io ritengo sia molto importante, per questo il ringraziamento dell'autoressa Trevisan è particolare, ma è particolare quello ai nostri attori e al presidente Franco Latino, che è uno dei curatori del volume, insieme a a Maria Maggi. Un volume come questo va evidentemente presentato in biblioteca. Va presentato in biblioteca perché qui trovate tutti i riferimenti bibliografici, bio-bibliografici, diciamo, sugli autori che sono antologizzati, o meglio, diciamo, è un repertorio di autori. Sentiranno, a parte tre saggi introduttivi, di Franco Maria Maggi, del professor De Marchi, e se avete voglia di annoiarvi un po' di più anche quello che ho scritto io, diciamo, poi sui singoli autori trovate parti saggistiche, parti antologiche, commenti agli autori. Ecco, non trovate, attenzione, poesie o prose, nel senso di racconti, nel senso di estratti da romanzi o altro. Questo non c'è nel volume. È volutamente, per questo dicevo, in biblioteca ha un senso particolare presentarlo, è volutamente un lavoro sugli autori, sui rimandi che gli autori hanno, quindi c'è un'ampia bibliografia e anche naturalmente una piccola biografia. La biografia ha evidentemente un valore minore della bibliografia, però un certo valore ce l'ha. La scuola, diciamo così, semiotica che possiamo individuare non da Barthes, non da Roland Barthes, ma dalla Kristeva fino a Eco, un tempo rifiutava l'approccio biografico agli autori. Poi invece c'è stata una revisione. Evidentemente può servire sapere che un poeta o in questo caso spesso sono poeti che sono anche scrittori o viceversa, scrittori che sono anche poeti. Ha un senso sapere dove un autore è nato, dove ha trascorso buona parte della sua vita, che studi ha fatto, che formazione ha, che letture. Questo magari ecco, in piccole note biografiche è più difficile trovarlo, ma poi appunto c'è tutto un rimando ad altri libri. I libri generano borghesianamente altri libri e questo è il loro valore. Cioè, se noi troviamo dei rimandi bibliografici che possono essere o i libri dell'autore o invece testi sull'autore, appunto saggi, articoli, commenti di ogni tipo, come qui. Ecco, evidentemente questo ci serve per fare una ricerca, per fare un saggio, per impostare una tesi di laurea o triennale o magistrale su un autore o su più autori, no? Qui c'è fra l'altro anche dal punto di vista geografico e non mi piace dire etnico, ma insomma diciamo, legato alla geografia della letteratura, che è un concetto che finalmente si è in qualche modo inverato anche nello studio della letteratura. Oltre alla storia della letteratura, evidentemente c'è anche una geografia letteraria, no? Tra non moltissimo, la Lattmac, non è uno scoop, ma è realtà, pubblicherà un volume. Diciamo in questo caso invece poetico-antologico sul rapporto di poeti e scrittori, poeti soprattutto in quel caso, con la montagna, con la dimensione dell'altitudine, diciamo. E questo naturalmente poi è altra cosa, ma per dire un poeta o uno scrittore che vive sul mare ha un rapporto forse diverso con la realtà e con anche la propria rielaborazione poetica e anche in prosa della realtà rispetto a chi vive, per esempio, in una città che è lontana dal mare, chi vive in un paese che invece si trova, non so, o in Val d'Aosta o nel Trentino o nell'Alto Adige o nella realtà bellunese, per dire, insomma, ci sono varie realtà montuose, notoriamente, ecco, l'Italia è un paese montuoso, quindi. Questo. Poi, come dicevo, altro. Uno può dire, ma questo ormai si trova su internet, vero? Però spesso una ricerca su internet può essere più lunga di una ricerca che ci dà un libro, lo dico soprattutto perché sono libri soprattutto destinati appunto alle biblioteche e alla lettura o in biblioteca oppure attraverso le biblioteche prendendo in prestito il libro. E poi ovviamente restituendolo, c'è un bellissimo racconto, probabilmente uno. Ma insomma, qui non vorrei dare un giudizio perché poi si rischia di essere faziosi, ma l'ultimo Stephen King a me non piace molto. Un racconto diciamo, di circa 2 decenni fa invece trovo molto interessante. Le biblioteche circolanti e anche stanziali diciamo, negli Stati Uniti, anche in piccole realtà degli States, funzionano molto e funzionano da secoli, insomma, ormai, no? Da quando gli States esistono. E lì immagina, appunto, si immagina ragazzino, dice che in parte è riferito a una sua esperienza quasi infantile, non aveva restituito un libro in biblioteca e tutto un po' il fantasmare questo. Ecco, attenzione perché rischia di essere un discorso un po' codino, un po' da paruccone, ma insomma i libri in biblioteca naturalmente dobbiamo restituirli tutti. Tutti noi, no? Che ne facciamo un uso per studio, per lettura privata, per qualunque tipo di uso, no? Anche se lo prendiamo in prestito per dire in 2 o 3 per passarcelo, cosa che non bisognerebbe fare, bisognerebbe farlo individualmente, ma se lo si fa, il libro, appunto, il libro si riporta. Questo, scusate, ma insomma, ecco perché è appunto un servizio che serve a tutti, quindi chiaramente va, ecco. Dicevo, è un'operazione questa che serve moltissimo. Beh, pensate, ecco, poi magari riprendo un po' nella seconda parte, altrimenti vi annoio troppo. Pensate a quando le fonti scritte sugli autori non c'erano. Faccio un esempio che è noto a tutti, la cosiddetta e ancora aperta. Quaestio omerica, non la questione di Omero, se l'Iliade e l'Odissea siano dello stesso autore, se l'autore sia Omero, la collocazione storica è esatta. Voi vi immaginate dal Villa Moritz Möllendorf in poi, non c'è ancora una soluzione su questo. Perché? Perché evidentemente non ci sono fonti se non orali o anche scritte, ma insomma spesso un pochino lambiccate, non troppo attendibili, spette, insomma, no? E la ricezione che evidentemente Omero o chi per lui o coloro che, se gli autori sono due, diciamo, avevano fatto, si riferivano a fonti orali in gran parte. E quindi evidentemente la rielaborazione scritta di un testo orale, adesso non vi faccio tutta la questione da alcuni in poi l'orature, no? L'oralità, il passaggio dall'oralità alla scrittura, però voi capite che ci sono dei problemi, no? Pensate che in un'epoca che invece è diciamo, molto più codificata come quella dei diciamo dei troubadour, trouveur, minnesänger, dolcestildoristi, eccetera, medievale, quindi i testi in qualche modo ci sono, però sono i testi scritti. Noi sappiamo che Heinrich von Mohrungen, Walter von der Vogelweide o tutti i dolcestildoristi italiani si accompagnavano musicalmente e sostanzialmente pare, ma è quasi certo, Drumbli e altri insegnano che le proposte fossero come quelle quasi di certi magari chansonnier, cantautori, come volete definirli attuali. Evidentemente c'è sempre una piccola variazione rispetto a quello che viene proposto a un pubblico, anche se è un pubblico di corte, e quello che poi viene scritto, quello che è rimasto nei codici. Immaginatevi appunto in epoca omerica o comunque diciamo pre-classica, perché sostanzialmente l'epoca omerica è ancora pre-classica, anche se abbiamo poi giustamente o meno, direi giustamente, sicuramente fatto di Omero un classico, però ecco, evidentemente possono esserci degli scarti rispetto delle variazioni, voglio dire, rispetto a quanto veniva proposto, diciamo, a un pubblico ristretto o meno che fosse, quasi certamente non ristretto, e poi la diciamo, statuizione, che è anche complicata, perché i codici omerici sono un bel problemino, insomma, non lo sono quelli medievali, ma immaginatevi, insomma, non vi sto a tediare su questioni che... Ma per, ecco, invece qui voi trovate dei riferimenti che sono oltremodo utili. Poi accennerò di più anche ai testi, diciamo, agli approcci saggistici. Ecco, tenete conto che qui avrete appunto degli autori anche famosi, non so, un nome per tutti, Ferruccio Ulivi, che è un notevole storico della letteratura, o Barbari Squarotti o altri, ma non si sono antologizzati testi, come vi dicevo, poetici o in prosa degli autori, proprio per una scelta uzzup, no? Come si diceva prima. E quindi gli attori sono bravissimi e vi trascineranno, ma la lettura è fatalmente un po' meno trascinante, perché i saggi o i commenti sono un po' meno, diciamo, trascinanti, coinvolgenti, appunto, di quanto non siano poesie, racconti, eccetera. Fiammetta Bada. Di lei Franco Maria Maggi scrive: poetessa ricca di sentimento e capace di esprimersi con quella particolare trascendenza della lingua dove l'inudibile è udibile, seguendo sempre un ordine reale, dettato soprattutto da un accentuato spirito creativo. Nella sua estrema dolcezza, la poetessa ripudia ogni linguaggio asimmetrico. Ci offre la terraferma, gli impeti del pathos, ma anche gli aculei dei fiori di cardo per difendere il suo genius loci, per riappropriarsi di fantasmatici ricordi. Una scrittura senza solchi o incrinature, sempre con finalità escatologiche, mai vistosa o arbitraria, fondamentalmente delineata su un cotè apparentemente scontato, dove la pulsione morale è sempre stagliata su scenari concreti. Un realismo di dialettica pura, mai inquinata, si direbbe passata severamente attraverso un alambicco, fino a strafondere nel tessuto narrativo quasi un respiro universale. Fonemi, morfemi, semantemi, disposti sempre senza cinismo, ma con generosità strutturale, fino a spingersi verso una positiva proliferazione sentimentale. Di Umberto Bombasaro, Eugen Galasso scrive: la poesia di Umberto Bombasaro penso si possa raccogliere, pur nella varietà di temi e stilemi espressivi, in alcuni punti e elementi di forza che sono poi fulcri semantici. Il fantasma della poesia, sempre variamente inteso ma sempre tale, l'amore all'ennesima potenza, il romanticismo come essenza vera, chiaramente al di fuori di riferimenti specifici storico-correntizi. Ed ecco, in relazione a quanto detto, dove dovremmo magari ancora aggiungere l'evocazione, che è in qualche modo il minimo comune denominatore sottostante, uno stile semplice e piano, e al tempo stesso ricercatissimo, raffinatissimo, capace di distillare non solo ogni verso o ogni sintagma, ma ogni lemma. Di Umberto Bombasaro, Claudio Cantisani scrive: le immagini che si levano dalle poesie di Umberto Bombasaro hanno una prerogativa tutta particolare. Nascono nella natura. Si sollevano, librandosi in cielo, di sentimenti profondamente umani, ridiscendendo poi nel luogo d'origine da cui si sono mosse. Ma è un ritorno finalizzato ad una definitiva completezza, perché si avvale di una ricchezza pescata a piene mani in un mondo umano di piccole ma intense prove. Molto spesso si tratta semplicemente di ricordi. Risveglia la nebbia, fantasie di fanciullo. Oppure rievoca giochi persi nel tempo. Altre volte invece a presentarsi sono impressioni ed emozioni che nascono dall'occasione del contatto e nel presente si dissolvono, a meno che una scoperta casuale o la fatalità dell'incontro nuovamente le allerti. Giorgina Busca Gernetti. Ci dice Francesco Fiumara, la particolarità della poesia di Busca Gernetti è il tedium vitae, ossia il mal sottile di cui soffre tutta la poesia moderna che scorre sotto i ponti del decadentismo. E ancora Paolo Luffilli dice, Busca Gernetti vede la poesia come tramite comunicativo, come ponte e flusso di parole, come racconto di sé e delle proprie radici, a metà fra la vigile consapevolezza e il recupero dell'inconscio. Sandro Grosspietro scrive di Busca Gernetti, la poesia di Busca Gernetti sviluppa la condizione di solitudine e di ansia esistenziale dell'uomo del XX secolo, non più confortato da un credo religioso e nel contempo anche convinto che la scienza e la tecnologia non sono in grado di rispondere a tutte le domande che lo tormentano. Andrea Carrano. Agnello Baldi scrive. Andrea Carrano, ben noto nonostante la sua personalità schiva ed appartata, nonché acuto indagatore di testi greci e latini, filologo e metricologo, autore di importanti contributi critici ed esegetici, è anche una sensibile ed interessante presenza nel panorama della poesia contemporanea. Di Andrea Carrano, Raffaele Piazza scrive. Il versificare di Carrano è caratterizzato da un forte lirismo e da un forte descrittivismo, nei suoi sintagmi che si snodano in modo elementare e armonico. Si tratta di composizioni verticali, nella maggior parte dei casi, dominate da un indiscusso nitore. Ci sono ben poche metafore o sinestesie, ma ciò non significa che non ci troviamo in presenza di una poesia alta, della quale il poeta ha piena coscienza letteraria e quello che spesso domina è un forte senso della sospensione, dovuto a immagini affascinanti e imbevute di grande bellezza. E ancora Silvano De Marchi scrive, la vera ispirazione di Carrano è però nella contemplazione della natura, dove il suo animo trova la pace e batte all'unisono con essa. Dal punto di vista stilistico, si ravvisa la lunga consuetudine del poeta con i classici, che gli hanno insegnato il lucidus ordo, il senso della misura, l'essenzialità e chiarezza dell'espressione, la scelta del vocabolo eletto adeguato ai tempi. Silvano De Marchi. Di Silvano De Marchi, Antonio Crecchia scrive. Silvano De Marchi, studioso, e Silvano De Marchi, critico. Nessuna dicotomia o schizofrenia, ma una perfetta endiadi. Lo studioso, che ha conoscenza dei metodi teorico-critici per approcciare la poesia e la prosa, dal romanticismo de Sanctissiano all'idealismo di Croce, al formalismo di Spitzer, all'approccio sociologico-materialistico, allo storicismo aperto di Luigi Russo, dallo strutturalismo alla semiologia e semiotica, al decostruttivismo di Derrida e altri, ne prescinde, anzi ne tiene conto criticamente per tornare al testo. Fedele come sempre alla forma e allo stile ermetico, aperto alle migliori prove della poesia europea dell'ultimo cinquantennio, Silvano De Marchi, con la raccolta Momenti, offre ulteriori spunti di riflessione su alcuni temi esistenziali, filosofici e teologici di difficile soluzione. Con consolidato rigore poetico e con un linguaggio sempre più scarno, selettivo, essenziale, raccoglie in queste pagine momenti diversi, ma tutti significativi del suo sentire, ora magico e fascinoso, ora descrittivo, ora dolente e nostalgico, ora visionario, ma sempre con valore di testimonianza di una vita vissuta alla ricerca di se stesso, in un frenetico e incessante scandaglio, nelle pieghe più profonde della propria individualità. Luigi De Rosa. Di Luigi De Rosa, Giorgio Barberi Squarotti scrive. La poesia di Luigi De Rosa appare sostanzialmente come il risultato di una grande espansione vitale, che trova nel verso la misura sensibile e disponibile per trovarsi una misura, una norma, una forma, in modo da perpetuarsi in rievocazione, memoria, sorridente e ilare ripetizione dei gesti fondamentali della vita, soprattutto di quelli dell'amore. È una poesia di letizia avventurosa, di gioia piena di slancio, di entusiasmo, di ansietà di ripetere all'infinito, nella realtà ma più ancora nella parola, l'esperienza del piacere e della contemplazione, degli incontri e delle occasioni infinite di colloquio, di rapporto, di scatto della mente e dei sensi che riporta, viva e attuale sulla pagina, più ancora forse che nella realtà, la persona amata, magari evocata fuori da una serata grigia di Torino, da un tramonto di Alessandria, da uno squarcio di mare della Liguria, dalla noia e dalla vanità di un convegno in Sardegna. Cristina Ferrari. Silvano De Marchi ci dice: la poesia di Cristina Ferrari è un'espressione spontanea del sentimento e della fantasia, che ha come input ispirativo in primo luogo la natura, soprattutto alpina, abitando a Trento, ma anche la memoria dell'infanzia e in genere la vita, che le dona momenti di gioia ineffabili che oscurano quelli tristi che tutti abbiamo. Di qui una visione prevalentemente ottimistica e di grande riconoscenza al creatore che ci ha donato la vita, un fattore positivo per chiunque. Anima sensibilissima, trasale ad ogni emozione e dinanzi a piccoli eventi che in lei hanno una notevole risonanza interiore, per cui sente il bisogno di esprimere e lo fa in un canto gioioso e insieme trattenuto, affidato a versi molto brevi in sequenza verticale secondo il suo stile. Di Cristina Ferrari, Italo Bonassi scrive: la poesia di Cristina Ferrari non appartiene a nessuna corrente di scrittura. È una poesia espressione della sua anima, quindi è voce della sua emotività, dei suoi più reconditi sentimenti, ma contemporaneamente è figlia di una meditata e sofferta riflessione introspettiva, una summa delle sue più nascoste e travagliate meditazioni, che solo nei versi affiorano qua e là timidamente, sempre ben controllata a discrezione e perfetto self-control. Eugen Galasso. Ci dice Franco Maria Maggi: scrittore e poeta eziologico dei conflitti interiori, Eugen Galasso fotografa con ricchezza espressiva remote lontananze e ineluttabili istanze della psiche, contrappuntate da straordinarie polisemie e da idioletti plurilinguistici, mai rinviando o annichilendo il fatale nell'essenza dell'immutabile. In Galasso non manca una costante Einfühlung, una sorta di empatia verso quella che Edward T. Hall chiamava la dimensione nascosta, dove il flusso creativo percorre tutti i più minuti canali dell'esistenza come un immenso sistema arterioso, scambiando messaggi e sensazioni fino ad una specie di unificazione delle esperienze più intime. Lo stimolo lirico di Eugen Galasso si ricopre di passione creativa. Quello narrativo ha spesso uno sguardo freddo ed evita ogni possibile prosemica con i personaggi coinvolti nelle stesure, proponendoci con misurata ma profonda ironia tanta sensibilità termica. Sempre Franco Maria Maggi scrive: il rapporto del personaggio col proprio io è sempre corrispettivo dell'apparato sensoriale. Così, attraverso un ordine profondo, il suo sistema sinestetico coglie in modo netto tutti i flussi espressivi del suo habitat mentale. Galasso percorre la propria vita interiore senza particolari catalizzatori, ma affidandosi esclusivamente ad una sorta di cerebro-anarchismo, senza per questo trascendere o sottoporre a condizionamenti il suo modus operandi. La scrittura galassiana procede a forti scosse, spesso è anche sincopata, ma affronta sempre le stesure dei testi senza impoverimenti sinestetici, conservando soprattutto i necessari equilibri per poter attraversare una testura minimale delle emozioni. Franco Latino. Eugen Galasso scrive: a differenza di molti autori di oggi che vogliono soprattutto scioccare e epatè, Latino si muove nell'ambito di una meditas espressiva. Rinuncia a prolessi, analessi, catalessi, macchine narratologiche curiose, che in qualche modo finisce per stupire maggiormente, contenendo in sé risorse particolari, totalmente inaspettate, insospettate. Di Franco Latino, Silvano De Marchi scrive: Franco Latino è passato dalla poesia sociale a quella esistenziale, che assume in sé una più ampia e varia tematica, pur sempre mantenendo l'attenzione a tutto ciò che succede nell'attuale società. L'autore mette in risalto il difficile inserimento dell'uomo nel sud, nel tessuto sociale di una città del nord e insieme le vaste pieghe che esistono al di qua dell'efficientismo e dell'opulenza, di miseria e di emarginazione. E vive in questo discorso una partecipazione così viva e umana da coinvolgere profondamente il lettore attraverso i brevi bozzetti lirici che gettano una luce sinistra sulle figure e situazioni emergenti di quella realtà sommersa. Franco Maria Maggi ci dice lì a Bronzi, testimone di se stesso, ma anche dell'epoca in cui viviamo, Franco Maria Maggi ci appare una voce importante del Nord Italia, che egli ha contribuito a valorizzare letterariamente come autore con due opere dal titolo Storia della letteratura italiana in Alto Adige, dal dopoguerra ad oggi, e Dizionario Poeti Altoatesini. Sempre di Franco Maria Maggi, Silvano De Marchi scrive: seguace delle correnti letterarie e poetiche francesi, soprattutto simbolismo e décolle de regard, Franco Maria Maggi eredita dal primo la concezione rivelativa della poesia, mediante la polisemia della metafora e delle correspondance, che attesta in un'ansia metafisica. Dal secondo, l'attenzione all'attuale società dei consumi e della progressiva reificazione. E ancora Eugen Galasso scrive: una poesia acre, aspra, soave al tempo stesso, che non risparmia, anzi incalza il lettore attento, che cattura. Una poesia che lascia il segno. Maggi riafferma, rafforza l'idea, non solo romantico-prometeica, che la poesia debba scuotere, risvegliare. Se per André Breton il faut changer la vie et le monde, bisogna trasformare la vita e il mondo, raccogliendo la sfida di Arthur Rimbaud e di Marx, per Maggi sicuramente rimane valida la prima parte, quella rimbaudiana, cioè vale a dire l'istanza de il faut changer la vie, bisogna cambiare la vita. Carlo Olivari. Di Carlo Olivari, Antonietta Benaggiano scrive: i versi di Carlo Olivari potrebbero far presupporre solo sict et simpliciter il prevalere del tema degli affetti, così presente a qualsivoglia latitudine nella poesia di ogni tempo. Affetti familiari e amicali sono oltremodo presenti nel nostro autore e fluiscono versi con una poeticità intrinseca, ove s'annulla nel dettato del cuore l'alieno impoetico. Le rompere lirico porta talora a qualche esito ermetico, che non è, però, calco di una poetica ormai stantia. Anzi, diviene essenza di liricità, comunicazione affettiva in cui si dispiega una sensibilità non disgiunta da toni nostalgici. La poesia di Carlo Olivari, dalle forbite parvenze narrative, di elegante fattura, anche per la ripresa di certi stilemi delle lingue classiche, ci appare quindi fortemente impressa dalla perdita, sia come mutamento che ogni cosa svilisce nello scorrere del tempo, bellezza, giovinezza e persino la stessa memoria, riducentesi a ricordo fievole o nullo, sia soprattutto come estinzione che dietro di sé lascia solo vagheggiamenti di ombre, del quali si alimenta la immaginazione, ponendo poi interrogativi, superando dubbi nella considerazione della irrazionalità del nulla. Edio Felice Schiavone. Di lui scrive Elio Andriuoli: la verità è che Edio Felice Schiavone è un innamorato del creato, in tutte le sue forme, ed è pronto ad accoglierle nelle sue poesie con incisività ed efficacia di stile. È questo che rende genuina la sua arte e che ce la fa sentire prossima a noi. Basti leggere, per rendersene conto, i versi che gli dedica al suo cane. Baldanzoso riporta ciò che lancio, innalzo agli occhi suoi. Come un fanciullo caparbio di giochi, corre, corre, saltella. Mi parla con la zampa, con lo sguardo. Ed è proprio la partecipazione simpatetica con cui il nostro autore si pone di fronte alle varie manifestazioni della vita che costituisce la sorgente e offre materia sempre nuova ad un incanto che nei decenni ha mantenuto la sua intatta freschezza. Antonio Crecchia ci dice: Schiavone è anche un maestro del linguaggio, della parola colta, che, depurata della sua significatività primaria, tende a costituirsi come archetipo di una metafora continua, con richiami ed associazioni che vanno oltre i fatti, le azioni, le contingenze del momento. Teresa Tito Manlio. Di lei Elio Andriuoli scrive: la Tito Manlio sa guardarsi dentro con sincerità e acutezza d'intuito, esprimendosi in maniera limpida e schietta. Il suo dire, infatti, privo di oscure elucubrazioni verbali o di compiaciute ridondanze retoriche. La sua è invece una poesia che nasce da un autentico urgere del sentimento, che facilmente trova la sua forma in versi dall'andamento pacato e retti da un'intima musica. di Teresa Tito Maglio, Franco Maria Maggi scrive: Sandro Gross Pietro, nell'introduzione al volume Attesa per le risanate sponde, dice: Teresa Tito Maglio ha pienamente raggiunto la maturità e la sicurezza delle scrittrici italiane più note in tematiche di femminilità, come Alda Merini, Maria Luisa Spaziani, Liana De Luca ed altre. Una poiesis di grande bellezza, mai raffrenata da vibrazioni antiumane. Una liricità comprensibile, dove il fascino della lettura avvince e si concretizza in forti impulsi affettivi. Una grande poetessa, la Tito Maglio, rivelatrice di sonorità e di valori interiori commensurabili alla nostra esistenza di fuggitivi. Grazie a tutti. Diciamo, avendo letto un giudizio di questo tipo, probabilmente ci verrà l'idea, oggi, domani o chissà, no? Tra qualche anno, di leggerli. E leggerli vuol dire, evidentemente, mettere in discussione anche quanto avevamo letto in questo libro del 2010, insomma, no? Nel senso che magari leggeremo, non so, la dottoressa Tito Maglio, per dirne uno, se non ne conosciamo le opere, e magari ci confrontiamo con quanto è stato scritto su di lei, o leggiamo, adesso è un qualcosa di più vicino, leggiamo vicino perché verrà proposto a breve il nuovo libro appunto di Franco Latino, si può dire, dato che la proposta dovrebbe essere il 2, mi pare, Franco, no? Dottoressa, il 2 di dicembre, ecco, tra un po' meno di un mese, quindi diciamo siamo non a ridosso, ma insomma è una cosa abbastanza relativamente vicina. Ecco, e allora magari ci tornano in mente questi giudizi, o abbiamo letto magari l'articolo, il saggio intero da cui queste citazioni sono tratte, oppure lo ritroviamo e ci confrontiamo noi stessi con questo testo. Io ricordo, adesso non ne farò il nome, un carissimo amico, non c'è più purtroppo da molto tempo, così un po' anche per colpa sua, ma non si dice, e le vite spericolate spesso hanno qualche côté un po' pericoloso, no? una dark side, un lato oscuro, e lui diceva: no, leggerò sempre i classici senza leggere la prefazione, senza leggere il commento. Ecco, questa è una posizione, filologicamente potrebbe anche essere abbastanza attendibile, però dopo aver letto il testo originale io devo leggere, insomma, in qualche modo mi serve anche leggere qualcosa sull'autore. Il fatto che per esempio si tratti di un autore del passato che non conosco, io dico la verità, di recente non farò uno studio sull'autore, ma non lo conoscevo molto, se non per informazioni generali. Chesterton, non so, qualcosa di conosciuto da molti sono i racconti di Padre Brown, no? Ma ha scritto molte altre cose, ha scritto una biografia importante su Dickens, una monografia, anzi, per dir meglio. Ecco. Lì, se noi leggiamo qualcosa sull'autore, evidentemente ci serve soprattutto sapere come un certo autore si è formato, con quali autori si è confrontato polemicamente. Non so, il fatto che Chesterton, dopo la conversione al cattolicesimo, polemizzasse col socialista Harry Wells, quello della Macchina del Tempo, ecco, questo può servire, o che polemizzasse con Oscar Wilde, eccetera, ecco, questo evidentemente serve, no? Per collocarlo nella cultura inglese, ma non solo, perché poi Oscar Wilde è un autore che evidentemente, e anche Wells, che vanno al di là dello specifico britannico, se non solo inglese, ecco. E così tanti esempi. Prima, in un giudizio critico, abbiamo trovato il nome di Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini parlava, c'è un volume recensioni, di suoi testi critici, che si chiama Descrizioni di descrizioni. Non so se qui in biblioteca ci sia, ci sarà in altre biblioteche della città. Ecco, questo è un testo che è abbastanza interessante leggere quello che per esempio Pasolini diceva di Sandro Penna o di Pascoli, di cui era un notevole studioso anche, è evidentemente interessante. Lo dico anche perché il 2 di novembre ricorrevano 35 anni dalla morte. È stata infelicissima, scusate, non è un giudizio politico, ma proprio un giudizio umano, la battuta del Premier. Nessuno si vede, gli ha segnalato la cosa, anche Buonaiuti o altri fili collaboratori potevano dirglielo che ricorrevano proprio il 2 di novembre 35 anni dalla morte. È uno svarione, una mancanza anche di gusto, a parte il giudizio complessivo che è così, dégoûtant, ma così, gli è scappata, diciamo così. E non solo, il 2 di novembre è morta anche un anno fa Alda Merini, no? Due voci che nella diversità totale dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'approccio diciamo poetico, stilematico, dal punto di vista diciamo del passaggio dalla vita dall'esistenza alla vita e dall'esistenza alla poesia e dalla poesia di nuovo all'esistenza, nelle totali e notevolissime comunque differenze che ci sono tra i due, però hanno avuto un percorso analogo, per dirla con una frase di Allen Ginsberg che Pasolini amava, Ginsberg, ma anche in specifico questa frase, il corpo nella lotta, in Pasolini in un modo che purtroppo sappiamo per la conclusione tragica della sua esistenza, e per Alda Merini per tutte le tacche terribili che ha lasciato impressa l'esperienza del TSO, no? Del trattamento sanitario obbligatorio, cui con tutto il disastro diciamo della psichiatria di un tempo, cui la Merini è stata sottoposta. E ecco, poeti e scrittori che non si infingevano e non fingevano, no? Questo è molto importante, per quello dicevo, un passaggio non diretto, perché nulla mai è diretto quando si scrive, però una ricezione diciamo, delle tacche fondamentali della propria esistenza nella poesia e nella produzione poetica, cioè creativa, anche in prosa evidentemente, di entrambi gli autori. Ecco, questo un po' per dire. Voi avete sentito esempi di approcci diversi, evidentemente ogni critico, ogni lettore che in qualche modo lo fa per professione, non solo per, tra virgolette, passione, ma anche evidentemente con passione, direi che sono giudizi che non sono casuali, cioè vengono comunque da persone che hanno letto, approfondito certe opere e si sono confrontati con esse, o confrontate con esse opere, appunto, e anche con gli autori che le hanno scritte. Sono giudizi diversi, sono giudizi discutibili, nel senso latino letterale, cioè da discutere, quello che dicevo prima, quando noi approfondiamo un autore e non è detto che ci arriviamo leggendo direttamente il testo, contrariamente a quanto diceva quel mio amico. Leggiamo solo gli autori e non i commenti. Eh no, un momento, insomma, ci sono anche i commenti che possono essere o non essere, naturalmente rimane libera la possibilità del lettore, della lettrice di opinare diversamente, di dare un giudizio diverso, di leggere diversamente i testi. E il famoso lector in favola, il lettore che concrea con l'autore le opere, è questo, cioè la capacità che il lettore ha di diciamo dare una lettura che in qualche modo prosegua l'opera. Magari ecco, è più difficile se leggiamo, con tutto il rispetto per carità, un thriller, chiaro che un romanzo di poniamo Agatha Christie è profondamente diverso da un romanzo di Balzac, di Zola, di chiunque vogliate, insomma, di Kafka, di, per rimanere nella letteratura italiana, di Manzoni oppure di Cassola, ci sono differenze abissali tra un autore e l'altro, e qui sta a noi, magari anche con l'ausilio, o non, se qualcuno non vuole, con l'ausilio di qualche testo critico, però diciamo leggerli quantomeno dopo per dire, ma guarda qui, non mi ritrovo per nulla d'accordo con chiunque abbia scritto una certa cosa. Questo è estremamente utile, molto importante in realtà. Quindi questi testi servono, al di là appunto del fatto che c'è internet, c'è Wikipedia, eccetera, tutto quello che vogliate metterci. Però, per citare ancora Pasolini, la sensualità del fruscio della carta, evidentemente un certo ruolo ce l'ha ancora, no? Proprio di recente così, era venuta fuori la questione che probabilmente ci sono ancora delle chance per il libro, al di là del fatto che possiamo avere i libri anche in formato diverso, insomma, ora, no? Però a parte, ecco, il fatto che questa dimensione dell'informatica si è un po' meno, soprattutto da noi, si è affermata un po' meno, anche perché voi sapete che leggere per molte ore al computer, ove la luce non sia data, può creare dei problemi. Leggere un libro, soprattutto se, diciamo, come anche in questo caso, la stampa è buona, diciamo, i caratteri sono accessibili anche a livello ottico percettivo, in qualche modo danneggia meno la vista, forse, ecco, una lettura diretta, no? Una lettura del... Poi naturalmente possiamo essere gutenbergiani o post-gutenbergiani, tutti noi, almeno insomma chi è costretto a farlo anche di mestiere, è obbligato a leggere anche testi che troviamo in internet o che ci vengono comunque inviati appunto in modo più diretto, non cartaceo. Una cosa comunque non esclude mai l'altra, eh? L'approccio cartaceo non esclude appunto internet, tanto meno viceversa, insomma, ecco. Quindi al di là poi di quanto si diceva, però ecco, l'ausilio. Poi ecco, anche questo prima o poi naturalmente verrà recepito anche dal punto di vista diciamo della rete, entrerà in rete magari non tutto, no? Non so se lo sapete, ma anche molte, a parte i giornali che hanno varie edizioni diciamo per via telematica, però esistono anche riviste, no? Che magari non ci danno tutta la rivista in internet, però è in qualche modo accessibile almeno una parte della rivista, no? Anche per riviste culturali vale questo. Ecco, io ho concluso, spero di non avervi tediato troppo, ma ecco, volevo ricordarvi che appunto opere come questa sembrano, e forse anche in parte sono, un po' meno emozionanti, tra virgolette, nel senso che le emozioni vengono trasmesse ma in forma mediata, c'è un intermediario che è il critico, che è il lettore accreditato, come vogliamo definirlo, non importa, ma in qualche modo rimane poi la possibilità di confrontarsi, in questo caso con molti autori, no? Non ricordo neanche, Franco, quanti sono, ti ricordi quanti siano? Fatto una, però, portata una selezione, selezione c'è, sono già 22, ecco, sono naturalmente non pochi, e come avete visto ci sono vari giudizi critici su ogni autore, e quindi anche questo offre un po' quello che si diceva, una possibilità di scelta e una possibilità poi di distinguere, no? Di rapportarci anche con un giudizio piuttosto che con un altro, eccetera. Ma evidentemente direi bypassare un libro come questo non è opportuno, ecco, questo è evidentemente, al di là anche poi degli autori antologizzati, il titolo è antologia, ma è appunto un'antologia, come vi dicevo, di giudizi critici, non è un'antologia di autori, cioè di poesie o di racconti o di parti di romanzo o altro, però ecco, evidentemente anche non so, leggendo un autore, una poetessa, soprattutto è poetessa, ha scritto anche in prosa, ma meno come Busca Gernetti, che personalmente mi convince molto, ed è molto interessante, ecco, il fatto che abbia motivi leopardiani, che abbia in sé, pur superandoli, motivi che sono riconducibili al decadentismo, a me non piace molto il lemma, non piace molto la definizione di decadentismo, perché parlerei d'altro, definirei diversamente, no? Perché il decadentismo deriva dall'idealismo crociano, quindi decadentismo voleva dire un qualcosa di diverso dalle grandi idealità, no? Per cui per esempio Croce, ma non solo, in Baudelaire vedeva appunto una forma di decadenza, no? Lo spleen e il tedium vitae baudelariano, taedium vitae è meglio, si dovrebbe dire, ma insomma, ecco, tutto questo evidentemente ci serve, perché ci dice, ma qui se leggiamo, Busca Cernetti è un esempio, evidentemente dobbiamo rifarci al, io direi, simbolismo, insomma, ecco, e all'esperienza prima, evidentemente, di Leopardi, no? Per dire alcuni autori. Quindi anche la, scusate l'espressione, ma insomma la filiera degli autori, e segnatamente in questo caso dei poeti, serve oltremodo per, diciamo, leggere un autore, per approfondire un autore, per al di là poi appunto dell'uso che ne facciamo. Non è detto che si debba produrre un saggio su un autore, si può anche usare e mettere in atto, diciamo meglio, quello che Roland Barthes chiamava le plaisir du texte, il piacere del testo, no? Che evidentemente può servirsi di certi strumenti interpretativi, ermeneutici, può anche essere una lettura di tipo diverso. Ecco, qui mi sovveniva sul racconto di Franco a proposito dell'Africa, ecco, un critico lo rimandava, diciamo, alla possibilità, appunto, interessante fra l'altro, che questo rituale ci sia o non ci sia più, magari c'è stato, ma, personalmente invece citavo un'esperienza più libresca, che è René Girard, La violence et le sacré, no? La violenza e il sacro, che è un testo antropologico, storico-antropologico, molto discutibile, però nel senso che dicevo prima, non nel senso che sia un qualcosa da buttare via, qualcosa da usare con prudenza, no? Ecco, ogni giudizio critico, trinen vuol dire distinguere, discernere, non giudicare. Poi magari i critici sono diventati anche dei giudici, ma non è questa che dovrebbe essere la vera funzione primaria. Ecco, lì evidentemente il giudizio critico, ma appunto la critica, ci serve soprattutto per, usando un francesismo, approcciare un autore, avvicinarsi a un autore. Aggiungere una cosa, se il nostro pubblico è curioso, ecco, va a piacere, molti di questi autori li vedremo qua in biblioteca, insomma, alcuni sono autori locali che sono stati già pubblicati dalla LACMAG, per cui insomma siamo disponibili, ecco, con i testi necessari. Sì, infatti, che l'hai esaltata. È in biblioteca, questo, ecco. Al di là, mi raccomando, si diceva prima, ma al di là così della battuta, perché tutti voi sarete più che solleciti nel riportare i testi, e non farete come appunto il ragazzo Stephen King, che li teneva, non si sa, o perdeva lì. Però voleva anche dire una cosa. Franco, già. Innanzitutto volevo ringraziare la dottoressa Trevisan che ci ospita, e poi il pubblico, tutti i collaboratori e così sempre disponibili, e tutti gli intervenuti, il professor Galasso e anche la Grazia dell'Aquila e Patrizio Zindaco. Vi ringrazio e niente, vi ha già anticipato prima che il 2 dicembre ci sarà la presentazione di un libro e spero di rincontrarvi ancora. Vi ringrazio di nuovo.